siamo destinati purtroppo probabilmente a dire ogni volta che tornano le elezioni. Chiudere l'informazione politica durante le elezioni è come chiudere la domenica sportiva la domenica. Non ha un senso, non ha un senso profondo, non ha un senso superficiale, non ha senso. Il punto è che solo in Italia si ha un potere così forte su una televisione, perché solo in Italia ce ne sono solo due. Una è del capo della maggioranza, l'altra è indirettamente controllata dal capo della maggioranza. Se chiudi una, il gioco è fatto. Se allora, ci fossero tanti editori, tante televisioni, il gioco sarebbe più complicato.